La notte, mentre in cucina il mugnaio, coricato su una stuoia, si faceva raccontare da Zuan la scoperta delle rovine di Sorrabile, l'antica città disotterrata nei dintorni di Fondi, e domandava se vi si potevano trovare ancora tesori, Anania guardava dalla sua finestruola il lento sorgere della luna fra i denti neri dell'Ortobene. Finalmente era solo. La notte regnava piena di fremiti e di dolcezza, e già il cuculo riempiva di gridi palpitanti la solitudine della valle. Ah, così, tristemente, Anania sentiva gridare e palpitare il suo cuore in una solitudine infinita. Perché aveva mentito? E perché quello stupido pastore aveva taciuto nell'udire la grande rivelazione? Non capiva dunque che cos'era l'amore? L'amore senza confine, senza speranza? Ma perché? S'era egli abbassato fino alla menzogna. Ah, vergogna, vergogna! Gli pareva di aver calunniato Margherita, tanto si credeva ignobile e lontano da lei, e che lo stesso spirito di vanità e il desiderio dell'inverosimile che una volta gli avevano fatto dire a Zuan l'incontro dei banditi sulla montagna, in un lontano tramonto, l'avessero ora spinto a rivelargli quest'amore impossibile. Attaccò le mani fredde alle guance ardenti, con gli occhi rivolti al viso melanconico della luna, e rabbrividì. Ricordava un freddo e luminoso plenilunio d'inverno, la vergogna e la rivelazione del furto delle 100 lire, la figura di Margherita che spandeva luce nell'ombra come la luna nella notte. Ah, forse il suo amore datava da quella sera, ma soltanto adesso, dopo anni ed anni, scaturiva irrefrenabile come una sorgente che non vuole più scorrere sottoterra. Questi paragoni dell'ombra e della sorgente improvvisa venivano fatti da lui ed egli si compiaceva delle sue immagini poetiche, ma non cancellava con esse la vergogna e il rimorso che lo tormentavano. Come sono vile, pensava, vile fino alla menzogna. Io potrò studiare, diventare avvocato, ma anche moralmente resterò sempre il figlio di una donna perduta. Rimase lungo tempo alla finestra. Un canto triste passò e dileguò lontano, ridestando nell'anima dell'adolescente i ricordi della patria selvaggia, i tramonti sanguigni, le memorie d'infanzia e sogni melanconici e luminosi, come la luna, gli sorsero nell'anima. Si immaginò di trovarsi ancora a Fondi. Non aveva studiato, non aveva mai sentito la vergogna della sua condizione sociale. Lavorava, faceva il mandriano, era anche lui un po' semplice come Zuanne. Ed ecco che si trovava sull'orlo della strada in un rosso crepuscolo d'estate e vedeva Margherita passare, povera anch'essa ed esiliata sull'alto paesello. Coi fianchi stretti dalla gonna d'orbace, l'anfora sul capo, simile alle donne bibliche come lo sono ancora tutte le barbaricine. Egli la chiamava ed essa volgeva il viso illuminato dal bagliore del crepuscolo e gli sorrideva voluttuosamente. Dove vai, bella? Egli chiedeva. Vado alla fontana? Posso venire con te? Vieni pure, Nania. Egli andava e scendevano assieme alla fontana, camminando sull'orlo della strada, sull'alto delle immense valli nella cui profondità la sera già si stendeva, mentre il cielo purpureo si scoloriva e veli d'ombra cadevano su tutte le cose. Margherita deponeva l'anfora sotto il filo argenteo della fontana gorgogliante e il mormorio dell'acqua cambiava di tono e di monotono pareva diventasse allegro, come se il cader dentro la brocca interrompesse la sua eterna noia. I due giovanetti allora si sedevano su una pietra davanti alla fontana e parlavano d'amore. L'anfora si riempiva, l'acqua traboccava e per qualche istante taceva, quasi ascoltando ciò che i due innamorati dicevano. Ed ecco che il cielo si scoloriva e i veli d'ombra si stendevano anche sulle falde più alte della montagna, come il desiderio di Anania che lui invocava. Egli allora cingeva con un braccio la vita della fanciulla. Margherita posava il capo sulla spalla di lui. Egli la baciava. In quel tempo Anania, poco più che 17enne, non aveva amici e coi compagni di scuola andava poco d'accordo perché era diffidente e scontroso. Temeva continuamente che qualcuno gli rinfacciasse la sua origine e un giorno, avendo sorpreso un brano di dialogo fra due studenti, «Tu cosa faresti?» «Ah, nelle sue condizioni io non resterei col padre.» credette accennassero a lui. Non salutò più i ricchi compagni che avevano pronunziato quelle parole, ma nel profondo del cuore diede loro ragione. Sì, pensava, perché rimango presso quest'uomo sucido che ha ingannato mia madre e l'ha gettata nella via del male? Io non lo amo e non lo odio, ma non lo disprezzo come dovrei. Egli non è cattivo e neppure completamente triviale come tutti i nostri vicini, coi suoi sogni bambineschi di tesori e di cose meravigliose, col suo affetto rispettoso verso la vecchia moglie, con la sua fedeltà costante per la famiglia del padrone. Egli mi riesce talvolta simpatico e questo mi dispiace perché io dovrei e vorrei disprezzarlo. Che cosa è per me lui? Gli ho chiesto io di farmi nascere? Io dovrei abbandonarlo ora che sono cosciente. Ma un po' d'affetto e molta confidenza lo univano a zia Tatana. Essa non era riuscita a far di lui quello che aveva sognato, cioè un ragazzo religioso e obbediente, ma anche così come egli era, indifferente a Dio, maldicente dei preti e dei re, protervo e spregiudicato, lo amava egualmente, convinta che egli, nonostante i suoi difetti, sarebbe diventato un grande uomo. Gli rideva e scherzava con lei, la faceva ballare, le raccontava tutti gli avvenimenti del paese. Ogni mattina ella gli portava a letto una tazza di caffè e gli annunziava se la giornata era bella o brutta. Tutte le domeniche, poi, gli prometteva denari se gli andava a messa. «No, ho sonno», egli rispondeva, «ho studiato tanto ieri notte». «Allora andrai più tardi», ella insisteva. Egli non prometteva, ma zia Tatana gli dava egualmente i denari. E sempre intorno a lui svolgevasi la stessa scena con gli stessi personaggi. Ancora il sambuco profumava l'aria e gettava foglie nella cameretta silenziosa. Il vento portava dalle valli il soffio della selvaggia primavera nuorese. Le api ronzavano nell'aria tiepida e ancora, a intervalli, vibrava il lamento di Rebecca. Anania frequentava tutte le case del vicinato e specialmente la domenica si indugiava qua e là, portando nei miseri ambienti neri l'eleganza del suo vestito bleu, della cravatta rossa e del colletto alto, sotto il quale celavasi il cordoncino dell'amuleto di Olì. L'indomani del sogno idilliaco, fatto al chiaro di luna, sul davanzale della sua finestruola, appena Zuanne ritornò dal tribunale, egli lo condusse fuori con la buona intenzione di fargli bere un calice di anisetta nella bettola del vicinato. «Chissà quando ci rivedremo», disse il mandriano. «Quando dunque verrai a trovarci? Vieni per la festa dei martiri?» «No, non posso. Ho tanto da studiare. Quest'anno devo prendere la licenza ginnasiale». E poi? Dove andrai? In continente? Sì, rispose Anania con impeto. Andrò a Roma. Ci sono tanti conventi a Roma e più di 100 chiese, non è vero? Oh, più di 100, certamente. Ieri notte tuo padre raccontava che quando era soldato. Dovrai fare il servizio militare tu? Interruppe Anania che non badava all'espressione del volto di Zuanne. Lo farà mio fratello, io. Tacque. Entrarono nella bettola, un nugolo di mosche ronzava attorno ad una fanciulla bruna e bella, ma spettinata e sucida, seduta al banco. Buongiorno, Agata, come hai passato la notte? Ella si alzò e si rivolse ad Anania con triviale familiarità. Che vuoi, bello? Che vuoi? Ripeté egli a Zuanne. È quello che vuoi tu, disse impacciato il pastorello. La fanciulla si mise a rifare la voce e l'atteggiamento di Zuanne. «Quello che vuoi tu? E tu cosa vuoi, agnellino mio?» Guardò sfacciatamente Anania ed anche Anania la guardò. Dopotutto egli non era un santo, ma si avvide che Zuanne arrossiva e chinava gli occhi. E quando uscirono, si sentì chiedere timidamente: «Anche quella è tua innamorata?» «Perché?» egli domandò un po' irritato, un po' allegro. «Perché mi guardava? Oh, bella, a che servono gli occhi?» Ti farai frate tu? Sì, rispose l'altro semplicemente. E va a farti frate, esclamò Anania ridendo. E adesso andiamo a vedere il camposanto, così staremo allegri. Eppure dobbiamo andarci tutti, disse gravemente l'altro. Mentre ritornavano verso casa, incontrarono un compagno di scuola di Anania, un brutto ragazzo che si era già fatto crescere i baffi e la barba a forza di strofinarsi e radersi il volto. A Tonzu! Vengo da te, ti vuole il direttore. Tu dunque farai da donna, egli disse, fermando Anania. Io? Ma che donna d'Egitto, non farò niente io, rispose Anania con molto sussiego. Come si fa allora? Sei l'unico tipo adatto, non è vero? Che rassomiglia a una donna, guarda! Esclamò lo studente brutto rivolgendosi a Zuanne. Sei bello, disse timidamente il giovinetto. Anania si inchinò levandosi il cappello. Grazie, altrettanto. Sì, dunque, non fare il modesto, sei bello, ripeté lo studente brutto. Vieni dunque dal direttore. Più tardi, ma io non farò da donna, parola d'onore, no. Perché deve fare da donna? Domandò con meraviglia Zuanne. In una commedia, capisci? Ed è per beneficenza per gli studenti poveri. Io sono povero, fatela dunque voi in mio favore la commedia, disse Anania. Povero? Sentilo, il diavolo ti porti, tu sei più ricco di noi. Che cosa vuoi dire? Chiese Anania minaccioso, rabbuiandosi al pensiero che il compagno accennasse alla protezione del signor Carboni. Tu sei bello, sei il primo, tu diventerai giudice istruttore e tutte le fanciulle ti vorranno raccogliere come un confetto. Questa espressione che Nanna ripeteva dappertutto fece ridere e calmò Anania, ma egli tenne la parola e non prese parte alla commedia e non se ne pentì perché la sera della rappresentazione egli poté assistervi seduto in seconda fila, subito dietro la sedia del padrino. In quel tempo sindaco di Nuoro, al cui fianco Margherita, in abito rosso e cappello bianco, risplendeva come una fiamma. Il capitano dei carabinieri, il segretario della sottoprefettura, l'assessore anziano e il direttore del ginnasio sedevano in prima fila, accanto al sindaco e alla sua splendida signorina. Margherita, però, non sembrava soddisfatta di tanta compagnia, perché si voltava indietro, guardando con dignità gli studenti e gli ufficiali. In fondo alla sala d'orna, di ghirlande d'edera e di vitalba, il sipario di percale, qua e là rattoppato, ondulava e lasciava scorgere coppie di studenti che ballavano allegramente. Alla fine il tendone fu tirato su con grande stento e la commedia cominciò. La scena risaliva al tempo delle crociate e si svolgeva in un castello molto turrito e vetusto all'esterno, per quanto all'interno fosse arredato con un solo tavolino rotondo e mezza dozzina di sedie di Vienna. La fida Ermenegilda, uno studentino dal viso tinto con carta rossa che indossava un largo vestito da camera della signora Carboni, seduta presso il balcone, con le gambe accavalcate indecentemente, ricamava una sciarpa per il non meno fido Goffredo, guerriero lontano. Ora si punge le dita, mormorò Anania, chinandosi verso Margherita. Ella si chinò a sua volta, portando il fazzoletto alla bocca per soffocare una risata. Il capitano dei carabinieri, seduto accanto a lei, volse lentamente il capo, dando un bieco sguardo allo studente. Ma Anania si sentiva tanto felice, aveva una pazza voglia di ridere e voleva comunicare a Margherita tutta la gioia che la vicinanza di lei gli destava. Nel secondo atto il conte Manfredo, padre di Ermenegilda, voleva costringere la fanciulla ad obbligare Goffredo e sposare un ricco barone di Castelfiorito. «Padre mio!» diceva la donzella, aprendo le gambe in modo sguaiato. «A che mi vuoi tu costringere?» Mentre il prode Goffredo langue, forse in una prigione orrenda, tormentato dalla fame, dalla sete e dagli insetti!» mormorò Anania, chinandosi nuovamente verso Margherita. Il capitano si volse di botto e disse con disprezzo: La finisca dunque! Anania sussultò, si ritrasse, gli parve d'essere umile e pauroso, come la chiocciola che appena disturbata si ritira nel guscio, e per qualche minuto non vide e non udì più nulla. La finisca dunque! Sì! Egli non poteva scherzare, non poteva parlare, sì, egli aveva capito benissimo, non poteva sollevare neppure gli occhi, egli era povero, era figlio della colpa. La finisca dunque. Che faceva lui fra tutti quei signori, fra tutti quei giovani ricchi e onorati? Come gli avevano permesso di entrare? Come aveva potuto chinarsi all'orecchio di Margherita Carboni e sussurrare le frasi volgari? Perché ora sentiva tutta la volgarità delle osservazioni fatte, ma non poteva parlare altrimenti il figlio di un mugnaio e di una donna. La finisca dunque. Ma poco a poco riprese animo e guardò con odio la nuca rossa e la testa calva del capitano. Non udendolo più ridere né parlare, Margherita si volse alquanto e lo guardò. I loro occhi si incontrarono ed ella s'offuscò, vedendolo triste, ed egli se ne accorse e le sorrise. E immediatamente tornarono allegri tutti e due. Ella rivolse il viso al palcoscenico, ma sentì che gli occhi lunghi e socchiusi di Anania non cessavano di guardarla e di sorriderle. Una sottile ebbrezza li avvolse entrambi. Verso mezzanotte, Anania accompagnò i Carboni fino alla loro casa. L'assessore anziano, un vecchio medico chiacchierone, camminava a fianco del sindaco. Anania e Margherita andavano avanti, ridendo e inciampando sui ciottoli della strada buia e diruta. Gruppi di persone passavano, ridendo e chiacchierando. La notte era scura ma tiepida, vellutata. Di tanto in tanto arrivava un soffio di levante profumato da un odore di bosco. Stelle e pianeti, infiniti come le lacrime umane, oscillavano sul cielo profondo, sopra l'ortobene. Giove brillava, vivissimo. Chi non ricorda, nella sua prima giovinezza, una notte, un'ora così? Stelle oscillanti nell'oscurità di una notte più luminosa di un tramonto, stelle pronte a cadere sopra la nostra fronte come un diadema regale, l'orsa brillante a guisa di un carro d'oro che ci attenda per condurci in un lontano paese di sogni. Una strada buia, la felicità vicina, così vicina da poterla afferrare e non lasciarla mai più. Due o tre volte Anania sentì la mano di Margherita sfiorare la sua. Ma il solo pensiero di poterla prendere e stringere gli parve un delitto. Egli parlava e gli pareva di tacere e di pensare a cose ben lontane da quelle che diceva. Camminava e inciampava e gli sembrava di non sfiorare la terra. Rideva e si sentiva triste fino alle lacrime. Vedeva Margherita così vicina da poterle stringere la mano e gli pareva lontana e inafferrabile come il soffio del vento che veniva e passava. Ella rideva e scherzava, ed egli aveva ben veduto negli occhi di lei il riflesso della sua sdegnosa tristezza, ma gli sembrava che ella non potesse badare a lui che come a un cane fedele. Se ella, pensava, potesse immaginare che io mi struggo dal desiderio di stringerle la mano, griderebbe d'orrore come al morso di un cane arrabbiato. Ad un certo punto la voce alta e nasale dell'assessore tacque. Margherita ed Anania si fermarono, salutarono, ripresero la via, ma lo studente parve destarsi da un sogno. Tornò a sentirsi solo, triste, timido, barcollante nel vuoto della strada scura. Bravo, bravo, disse il sindaco che si era messo fra i due ragazzi. Ti è piaciuta la commedia? È una stupidaggine, sentenziò Anania con tono sicuro. Bravo, ripeté meravigliato il padrino. Sei un critico acerbo, tu. Ma son cose da farsi quelle. Già il direttore è un fossile, non poteva scegliere altro. La vita non è quella, non è stata mai quella. Potevano dare una commedia moderna, una cosa commovente. Queste stupide contesse hanno fatto il loro tempo, disse Margherita prendendo il tono e l'accento ad Anania. Brava, anche tu? Sì. Davvero dovevano dare una cosa più commovente, per esempio la commedia di quegli indiani che quando la moglie partorisce si mettono a letto e si fanno trattare da puerpera anche loro. Avete sentito l'assessore? Margherita rise e rise anche Anania, ma il suo riso si spense subito, come troncato da un improvviso pensiero triste. Camminarono in silenzio. Ebbene, questi lampioni bisognerà provvedere, disse parlando a se stesso signor Carboni. Poi, a voce più alta, cosa hai detto per il direttore? Che è un fossile. Bravo, e se vado a dirglielo? E che mi fa? Tanto l'anno 21 me ne vado. Ah, te ne vai? E dove? Anania arrossì, ricordandosi che non poteva andar via senza l'aiuto del signor Carboni. Che significava ora la sua domanda? Non ricordava più? O si burlava di lui? O voleva fargli pesare già la sua protezione? Non lo so, disse a bassa voce. Ah, riprese il sindaco, tu vuoi andar via? Non vedi l'ora di andar via? Andrai, andrai, tu vuoi volare già, tu scuoti già le ali, uccellino. Ebbene, sh, vola! Fece atto di lanciare in aria un uccello, poi batté la mano sulle spalle del figlioccio ed Anania sospirò e si sentì leggero, lieto e commosso, come se veramente avesse spiccato il volo. Margherita rideva e nel silenzio della notte il riso vibrante di lei pareva ad Anania fattosi uccello il fremito arcano d'un ramo fiorito sul quale egli poteva posarsi e cantare. 7. S'avanzava l'autunno, erano gli ultimi giorni che Anania passava in famiglia ed egli si sentiva sempre più lieto, come l'uccello che sta per volare. Ma una vaga tristezza velava talvolta la sua gioia, un trepido timore dell'ignoto lo inquietava. Mentre si chiedeva com'era fatto il mondo verso cui si slanciava già col pensiero, doveva dire addio, lentamente, giorno per giorno, al mondo umile e triste nel quale s'era svolta la sua fanciullezza incolore, non oscurata che dal dolore dell'abbandono di sua madre, non rischiarata che dal fantastico amore per Margherita. La stagione languida e dolce contribuiva a renderlo sentimentale. L'autunno incipiente velava il cielo di infinita dolcezza, l'orizzonte si copriva di un vapore latteo e roseo che pareva velasse, ma lasciasse intravedere un mondo di sogni ineffabili. Nei crepuscoli verdognoli, rischiarati da nuvole rosse che serpeggiavano, svanivano e ricomparivano continuamente sul cielo glauco, Anania sentiva negli orti il crepitio e l'odore delle erbe secche bruciate dagli agricoltori e gli sembrava che qualche cosa dell'anima sua svanisse col fumo di quei fuochi melanconici. Addio, addio, orti guardanti la valle, addio, scroscio lontano del torrente che annunzia il tornar dell'inverno, addio, canto del cuculo che annunzia il tornar della primavera, addio, grigio e selvaggio orto bene dagli elci disegnati sulle nuvole come capelli ribelli d'un gigante dormente. Addio rose e cerule montagne lontane, addio focolare tranquillo e ospitale, cameretta odorosa di miele, di frutta e di sogni. Addio, umili creature, inconsce della propria sventura, vecchio zio Pera, vizioso, Efes e Nanna disgraziati, Rebecca infelice, maestro pane stravagante, pazzi, mendicanti, delinquenti, fanciulle belle inconsapevoli, bambini votati al dolore, gente tutta infelice o spregevole, che Anania non ama ma sente attaccata alla sua esistenza come il musco alla pietra, gente tutta che gli abbandona con gioia e con dolore. E addio, dolcezza e luce sopra tanti oscuri dolori, arcobaleno incurvato come cornice di perle sul quadro screpolato di una miseria antica ed eterna. Margherita, addio. Il giorno della partenza si avvicinava. Zia Tatana preparava una infinità di cose ed altre teneva pronte nella memoria: camicie, calze, dolci, frutta, focacce lucide come avorio, pezzi di formaggio e un pollo e 12 uova col sale e vino e miele e uva passa. Riempiva mano a mano bisacce, cestini e scatole. Diavolo! Osservava Nania. Pare debba partire un intero esercito. Silenzio, figlio mio, quando sarai là vedrai come tutto sarà necessario. Là nessuno penserà a te, poverino. Ah, come farai tu? Non dubitate, ci penserò io. Il mugnaio e sua moglie tenevano lunghi colloqui segreti ed Anania ne indovinava il motivo. Una sera poi li vide uscire assieme e attese ansioso il loro ritorno. Zia Tatana rientrò sola. Anania disse: dove dunque hai deciso di andare, a Cagliari o a Sassari? Egli veramente aveva fino a quel momento accarezzato il sogno di attraversare il mare, ma dalle parole della donna capì che qualcuno aveva stabilito di non lasciarlo ancora andare oltre le coste sarde. Siete stata dal signor Carboni? Chiese con fiera amarezza. Non negate, c'è bisogno di far segreti con me, io so tutto, io. Perché dunque non mi lascia partire per il continente? Gli restituirò tutto io. Bah, bah, esclamò zia Tatana, mortificata e addolorata dall'impeto di fierezza dello studente. Santa Caterina mia, che cosa ti passa in mente adesso? Anania sbuffò, sospirò, curvò il viso su un libro senza vederne una parola. La donna gli si avvicinò e gli posò una mano sulla spalla. Che cosa mi dici dunque, figliuolo mio? Cagliari o Sassari? Non hai detto fino a ieri che volevi andare a Cagliari o a Sassari? Perché vuoi andare più in là? Gesù Maria, il mare è una brutta cosa. Dicono che si soffre, che si può morire. E le tempeste, poi. Non pensi alle tempeste. Voi non capite niente, disse Anania, irritato, guardando e svolgendo le pagine come se leggesse vertiginosamente. Ma se l'hai detto tu, che capricci sono questi? Non si studia lo stesso tanto in Sardegna che in continente. Perché vuoi andare là? Ah. Perché voleva andare là? E che ne capivano loro? Era forse per studiare, fin dal primo giorno, quel dolce giorno d'autunno in cui Bustianeddu l'aveva condotto alla scuola nel convento, non aveva egli pensato ad un'altra cosa che non era lo studio? Le ragioni di zia Tatana calmarono alquanto la sua impazienza. Vedi, dunque, tu sei ancora un bambino. A 17 anni tu vuoi già correre solo per il mondo? Vuoi morire in mare, solo, lontano da tutti? O vuoi smarrirti in una città che tu stesso dici grande come una foresta? Va dunque a Cagliari adesso. Il signor Carboni ti darà tante lettere di raccomandazione. Egli conosce tutta Cagliari. Anche un marchese conosce. Ebbene, abbi pazienza, Santa Caterina mia. Andrai, andrai anche là quando sarai più grande. Tu ora sei come la lepre appena slattata. Ecco che essa lascia il covo e fa un piccolo giro fino al muro della tanca. Poi torna, cresce, poi si arrischia più in là ancora. Guarda dove deve andare, vede la via da percorrere. Abbi pazienza, pensa che siamo vicini, pensa che potrai tornare con più facilità ad ogni occorrenza. Nelle vacanze di Natale potrai tornare. Vado dunque a Cagliari, decise Anania, rasserenato.